Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, il tema della ripresa economica, il tema della ripresa del lavoro sarà centrale nelle prossime settimane, anzi nei prossimi mesi, e naturalmente nell'affrontare questi temi dovremo tenere conto di vecchie e di nuove insidie, un sistema come quello italiano che è meno produttivo di altri, la crisi che certamente il Covid ha provocato e in prospettiva un interrogativo di fondo sul futuro stesso del lavoro che secondo molti sarebbe messo a rischio per l'avanzare dei robot. Sono tutti problemi peraltro comuni a molti altri sistemi economici, ma che in Italia sentiamo in modo particolare anche per le condizioni di alcune fasce particolari di lavoratori o di non lavoratori, soprattutto quelli del sud, le donne e i giovani. Su questi temi scrive un libro molto lucido e innovativo uno dei maggiori esperti di questo settore, Pietro Ichino, esperto di diritto del lavoro, docente della materia, che in gioventù è stato dirigente sindacale, poi parlamentare prima del Partito Comunista e poi del Partito Democratico. Il libro si intitola L'intelligenza del lavoro, quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore, pubblicato da Rizzoli, 270 pagine, 18 euro. Come lascia immaginare il sottotitolo, Ichino propone un approccio rivoluzionario al problema, ribaltando la prospettiva e facendo della posizione di lavoro non qualche cosa che i lavoratori dovrebbero strapparsi a vicenda perché presente in maniera in misura insufficiente, ma anzi una merce abbondante che consentirebbe ai lavoratori stessi di scegliere loro e di essere soddisfatti. E non è un miraggio, secondo Ichino, considerando, secondo l'autore, che esistono quelli che chiama giacimenti occupazionali inutilizzati, che sono ricchissimi e che vedono molti imprenditori alla ricerca spasmodica di lavoratori specializzati che non trovano, e vede anche molti lavoratori ignari di tali possibilità anche per colpa di politiche del lavoro ormai obsoleto. E allora come riavviare questo mercato ce lo spiega l'autore. Buonasera Pietro Ichino. Buonasera. Pietro Ichino, come spiega nelle prime pagine del suo libro, questo si rivolge ai protagonisti del mondo del lavoro, a tutti i protagonisti, quindi imprese e lavoratori. Allora, questo significa che tutte e due le parti devono avviare una vera rivoluzione culturale per affrontare i temi che lei indica nel libro? Sì, questa è la mia convinzione e soprattutto occorre che tutti abbiano una piena consapevolezza del fatto che non c'è buon lavoro senza buona impresa, quindi anche buon imprenditore, come viceversa non c'è buona impresa senza buon lavoro, quindi occorre questo riconoscimento reciproco indispensabile. Ma occorre anche il riconoscimento di qualche cosa di cui non è consapevole l'opinione pubblica, e cioè che il problema del nostro mercato del lavoro, più e prima che un problema di mancanza di domanda di manodopera, è un problema di mancanza di servizi al mercato del lavoro per l'incontro fra domanda e offerta di manodopera. Noi abbiamo degli enormi giacimenti occupazionali inutilizzati, cioè centinaia di migliaia, venivano stimati in 1.200.000 posti di lavoro a fine 2019 permanentemente scoperti per mancanza di persone che avessero la qualifica o la specializzazione necessaria per ricoprirli, e questo spreco non possiamo proprio permettercelo, e mai come nella crisi gravissima che stiamo attraversando è indispensabile porre mano a attrezzarsi per creare i percorsi necessari perché l'offerta di lavoro, le persone che vivono del proprio lavoro possano accedere a questa domanda di lavoro. Crisi gravissima che il Covid ha aggravato, ma che lei ricorda era presente da molto tempo in Italia. Ma certo, e l'Italia è oggi in coda come in molte altre graduatorie, in coda rispetto agli altri paesi d'Europa nella graduatoria della corrispondenza fra qualifiche richieste dal tessuto produttivo e qualifiche che il mercato del lavoro produce, offre. Questo è un motivo e probabilmente il motivo principale del tasso di disoccupazione italiano più alto rispetto alla media europea, tanto più che ci insegnano gli economisti del lavoro e gli imprenditori, soprattutto le multinazionali, tendono a insediare i loro stabilimenti, i loro nuovi insediamenti produttivi laddove il mercato del lavoro è in grado di produrre la manodopera necessaria, con le competenze necessarie. Quindi una capacità del nostro sistema di formazione professionale di rispondere con precisione alla domanda espressa dalle imprese genererebbe domanda di lavoro, nel senso che attirerebbe nuove imprese e quindi aumenterebbe la domanda di lavoro e aumenterebbe la possibilità di scelta dell'imprenditore da parte dei lavoratori, delle persone che lavorano, quindi rafforzerebbe il potere contrattuale dei lavoratori stessi. Molti ascoltatori saranno sorpresi di sentire appunto che tante aziende non trovano lavoro nel bel mezzo di una polemica continua sul fatto che le macchine porteranno via posti di lavoro e che ci sarà sempre meno lavoro in futuro. Sì, in realtà tutto induce a pensare che il progresso tecnologico non produce una riduzione della domanda complessiva di lavoro. Una prova di questo è data dal confronto tra la forza lavoro attuale nel nostro paese, tra i 22 e i 23 milioni di persone, e quella che era la nostra forza lavoro occupata nel 1977, cioè il primo anno per il quale abbiamo dei dati comparabili con quelli attuali. 40 anni fa erano 19 milioni ed è stato un quarantennio di intenso progresso tecnologico. Quindi non è vero che il progresso tecnologico si mangia il lavoro umano, è vero che il progresso tecnologico fa sparire vecchi mestieri, vecchie mansioni, ma ne crea anche di nuove, e il problema è quello di sostenere i lavoratori nella transizione dal vecchio al nuovo. Ma sostenere i lavoratori in questa transizione è l'esatto contrario rispetto a quello che noi oggi facciamo, cioè ingessare le vecchie strutture. Il blocco dei licenziamenti è la misura sbagliata da questo punto di vista, mentre la misura giusta è sostenere robustamente i lavoratori anche sul piano economico, ma soprattutto sul piano degli strumenti di formazione e adattamento delle loro competenze ai nuovi mestieri. Ma questo è quello che va fatto, non mantenere legati, attaccati con le unghie e coi denti alla vecchia struttura i lavoratori, ma incentivarli e aiutarli e sostenerli nel passaggio alla nuova struttura. Da questo punto di vista il sistema delle politiche del lavoro italiano è veramente in ritardo gravissimo, e basti dire che spendiamo decine di miliardi in politiche passive del lavoro, cioè sostegno del reddito a chi perde il posto o è sospeso dal lavoro, e non investiamo nulla sulle politiche attive, cioè su quegli strumenti che dovrebbero consentire alla persona che lavora di acquisire le capacità e potersi candidare ai nuovi posti di lavoro che ci sono e che restano scoperti. Ma dove sono le resistenze maggiori a cercare questi nuovi posti di lavoro, a fare quello che lei propone? Sono di più nella politica, nell'impresa, nei sindacati? Allora, i sindacati un tempo all'origine si occupavano della posizione del lavoratore nel mercato del lavoro. Le prime camere del lavoro a cavallo fra il secolo XIX e XX funzionavano anche da uffici di collocamento, grandi istituzioni del movimento operaio come la Società Umanitaria a Milano funzionavano come vere e proprie agenzie moderne del lavoro, fornendo la formazione mirata a ciò che le imprese chiedevano e collocando aiutando i lavoratori, orientandoli. I sindacati hanno perso questa connotazione, questo terreno di impegno, anche perché sono stati espropriati da questa funzione in un primo tempo dal fascismo che nazionalizzò i servizi espropriandone le vecchie organizzazioni sindacali, poi dalla legge Fanfani del 49 che nella Italia repubblicana istituì il monopolio statale del collocamento. Da allora i sindacati italiani si occupano praticamente soltanto della tutela della persona che lavora nel luogo di lavoro, quindi là dove oggi contingentemente lavora, ma non si occupano della sicurezza delle persone nel mercato. Non abbiamo mai sentito di uno sciopero contro l'inefficienza dei servizi per il lavoro o uno sciopero per ottenere un impegno concreto del governo per il potenziamento delle politiche attive, e invece è questo che rafforza il lavoratore nel mercato. Quando parlo nel libro, e è il titolo del libro, Intelligenza del lavoro, intelligenza vuol dire saper leggere dentro. I lavoratori hanno bisogno di un'intelligenza individuale innanzitutto, cioè capacità di conoscere i meccanismi del mercato, le opportunità che il mercato del lavoro offre anche in termini di servizio, per poter usare il mercato a loro vantaggio, e questo in Italia è loro negato. Ma poi hanno bisogno anche di un'intelligenza collettiva, e questo non può che essere dato dal sindacato, da un sindacato che riconosca la funzione essenziale del buon imprenditore, sappia quindi distinguere il buon imprenditore dal cattivo imprenditore, il buon piano industriale innovativo da quello di cui invece non è il caso di fidarsi, e sappia guidare i lavoratori nella negoziazione a 360 gradi sul piano industriale innovativo con l'imprenditore che meriti la fiducia e la scommessa comune sul suo piano industriale. Ecco, questa intelligenza collettiva c'è in alcuni casi, ma in altri casi è mancata del tutto. E manca per esempio là dove si sente parlare di un ritorno allo Stato come buon imprenditore. Lo Stato non è in grado di far l'imprenditore, non sa far volare gli aerei, non si riesce a capire come possano i sindacati essere favorevoli a un'Alitalia gestita dallo Stato, ma lo Stato non sa neanche produrre e vendere l'acciaio, produrre e vendere elettrodomestici, eppure noi assistiamo a un ritorno all'idea che del vero imprenditore si può fare a meno e che lo Stato può sostituire questa figura che in realtà invece è insostituibile. Ecco, su questo terreno io vedo un difetto di intelligenza collettiva e indico quella che secondo me possono essere le vie, le strade per superare questo difetto, cosa di cui credo il nostro paese abbia molto bisogno. Grazie a Pietro Echino, autore dell'Intelligenza del lavoro. Buona serata. Grazie, a presto, a risentirci. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Tra una settimana inizia la stagione dei premi Nobel. Allora vi voglio segnalare alcuni libri sulla scienza, in particolare sulla fisica, il premio per la quale sarà assegnato il 6 di ottobre. A partire da quello di un grande studioso nonché comunicatore, Jim Al-Khalili, siriano di nascita, inglese di docenza universitaria, docente di fisica teorica e grande esperto di comunicazione scientifica, che pubblica Il mondo secondo la fisica con Bollati Boringhieri, 176 pagine, 18 euro. Il libro è tradotto da Laura Servidei. Un'ode alla fisica, definisce questo libro il suo autore, che vuole farci accostare alla materia attraverso la spiegazione delle meraviglie dell'universo. E Al-Khalili lo fa con un linguaggio semplice, ovviamente, anche che è applicato anche a concetti complessi. Ci spiega le origini dello studio delle leggi fisiche, la scoperta del metodo scientifico, i concetti basilari di spazio e tempo, di energia e materia. Ci fa scoprire, ci fa addentrare nei tre pilastri della fisica moderna: la teoria della relatività, la meccanica quantistica e la termodinamica, e infine ci spiega perché la fisica sia utile e ci introduce al metodo dello scienziato nelle pagine conclusive, che ci riguardano tutti direttamente, soprattutto alla luce di tante polemiche dei mesi scorsi. La storia della scienza è piena di esempi di studiosi che imparano dagli errori del passato. Nuove ipotesi e nuove teorie nascono per sostituire quelle vecchie quando la nostra comprensione del funzionamento della natura migliora, oppure quando si trovano nuove prove sperimentali. Il problema è come spiegare al grande pubblico il valore di questo metodo, che consiste nel formulare un'ipotesi, verificarla e rifiutarla se i dati non collimano. Questo modo di procedere è quanto di più lontano ci sia dalla quasi totalità della comunicazione odierna, particolarmente sui social media, dove le voci più in evidenza sono quelle di chi dà più valore alle opinioni personali, ai pregiudizi e ai preconcetti, invece che alle prove, alla riproducibilità e al rigore. Possiamo noi scienziati permetterci di insegnare qualcosa alla società? O saremo zittiti dall'accusa di arroganza ed elitismo? E la fisica quantistica può diventare la trama di un romanzo, come fa Gabriella Greyson, fisica e scrittrice, anch'ella divulgatrice scientifica, soprattutto attraverso il teatro. L'autrice ha scritto Ucciderò il gatto di Schrödinger, il romanzo della fisica quantistica, è pubblicato da Mondadori, 344 pagine, 20 euro. Schrödinger e Erwin, il celebre scienziato austriaco vissuto tra il 1897 e il 1961, che per i suoi studi sulla meccanica quantistica vinse il premio Nobel 1933. Qui diventa l'accompagnatore immaginario di una donna ventottenne che deve decidere cosa fare della propria vita, un po' ossessionata dal gatto del famoso paradosso che dello scienziato porta il nome, basato su un micio appunto che può essere sia vivo che morto. Il paradosso è diventato un fenomeno pop, ma per la narratrice la fisica quantistica, il famoso gatto e la mia vita sono strettamente legati. Per lei Schrödinger è un mito, l'amico immaginario, e ce lo presenta così. Ha pensato per primo tutto quello che noi oggi viviamo: intelligenza artificiale, entanglement, computer quantistici, crittografia, teletrasporto, biologia quantistica, neuroscienze, chimica, multiversi, tutto, il nostro presente e il nostro futuro. Come ha fatto? Come aveva capito che noi non sappiamo? Ma che razza di vita deve aver vissuto? E Alice si mette dunque alla ricerca del suo mito. L'autrice intercala dei sipari tra i capitoli in cui appunto parla la protagonista, che ricostruisce le sue scoperte sul personaggio, il suo contributo alla fisica moderna, i rapporti con i grandi scienziati dell'epoca. Comunque vadano le cose, lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo. Puoi chiamarlo bastardo, ma intanto è già andato. Una delle dimensioni più affascinanti affrontate dal libro di Al-Khalili è certamente quello del tempo, che ci ha introdotto adesso Giovanotti. L'autore qui ci parla di Newton ed Einstein, che ritroviamo naturalmente in un altro libro, quello di Joseph Mazur, matematico americano, Storia del tempo, misurare il tempo, da Zenone alla fisica quantistica, pubblicato al Saggiatore, 310 15 pagine 26 euro, tradotto da Giovanni Malafarina. Questo libro è costruito attorno alla modalità e alle tecnologie usate per misurare il tempo, alle teorie del tempo stesso, a partire da Zenone, appunto, il cui celebre paradosso pose la questione, come scrive l'autore, se il tempo e lo spazio siano continui oppure siano composti da unità discrete, come una successione di perline disposte in fila. Poi nel libro si parla di fisica e qui, attraverso la domanda su cosa sia un orologio, l'autore ci pone il problema del tempo al di là dell'osservazione, fino alla nostra percezione e ai ritmi del tempo. E qui c'è un capitolo che mi riguarda, e cioè l'accelerazione del tempo quando si invecchia. Analoghe e riconosciute capacità di divulgazione ha il direttore del celebre Hayden Planetarium di New York, Neil deGrasse Tyson, che è un astrofisico, che pubblica con Mondadori Lettere a un astrofisico, riflessioni sulla vita, sulla scienza e sul cosmo. 216 pagine, 20 euro, tradotto da Tullio Cannillo. L'autore quindi pubblica le risposte a tanti messaggi richiesti di delucidazione ricevuti nel corso della sua carriera, li raccoglie in capitoli intitolati innanzitutto all'ethos, inteso come spirito caratteristico di una cultura che si manifesta nelle sue credenze e aspirazioni, al cosmos, l'universo visto come un insieme ben ordinato, al pathos, uno struggente appello a emozioni che già risiedono dentro di noi, e al kairos, un momento propizio per la decisione o l'azione. Si affrontano dunque i dubbi della gente comune, per esempio in tema di cambiamento climatico. Si parla anche qua di metodo scientifico, di rifiuto della scienza, di filosofia, di religione, sulla quale ultima l'autore esprime tutto il suo scetticismo, su creazionismo ed evoluzionismo. E anche deGrasse Tyson, quando c'è da essere espliciti, non si tira indietro, come quando risponde a un artista hip hop terrapiattista noto col nome di B.O.P. Tutta questa faccenda non è che un sintomo di un problema più vasto. C'è in questo paese una crescente tensione anti-intellettuale che può essere l'inizio della fine della nostra democrazia informata. Naturalmente, in una società libera puoi e dovresti pensare quello che ti pare. E se vuoi pensare che il mondo è piatto, vai pure avanti. Ma se pensi che il mondo sia piatto e hai influenza su altri, l'essere in errore significa essere dannosi alla salute, alla prosperità e alla sicurezza dei nostri cittadini. Restiamo in ambito astrofisico, alzando lo sguardo al cielo, almeno in senso figurato, con il libro della Luna, Guida all'esplorazione del nostro satellite, di Maggie Anderin Pocock, scienziata spaziale ed educatrice scientifica, tradotto da Giovanni Malafarina per Saggiatore, 224 pagine, 25 euro. Questa è più che una storia della conquista da parte dell'uomo della Luna, perché il libro ci vuole fare scoprire tante cose che non sappiamo sulla Luna. Per esempio, non sappiamo ancora da dove si sia formata. E allora Adelin Pocock presenta i dati fisici del satellite, la vita che gli esploratori potrebbero trascorrervi in base alle condizioni esistenti, ci svela i segreti del lato oscuro della Luna, esplorata anche dai Pink Floyd. L'autrice ci ricorda altre testimonianze artistiche ispirate alla Luna, non ricorda Leopardi, però cita Leonardo e ci spiega cosa faccia la Luna per noi. Per esempio, si sofferma a lungo sulle maree e come osservare la Luna, ricostruisce la storia della conquista e ci dice che cosa sta succedendo adesso. Probabilmente ci torneremo sulla Luna, magari per iniziativa dei privati, scrive l'autrice, per ragioni commerciali legate alle risorse sfruttabili e alla posizione strategica del satellite, nonché, aggiunge, della possibilità ormai non remote di turismo lunare. Ma nel cielo non c'è solo la Luna che attrae la nostra attenzione, non solo dal punto di vista commerciale. Adrian Fartade, rumeno di nascita e senese per sede universitaria, è uno storico dell'astronomia, nonché anch'egli divulgatore scientifico, in particolare sui social. E ha scritto Come acchiappare un asteroide, viaggio alla scoperta dei corpi celesti minori che ci aiuteranno a salvare la Terra. Questo è pubblicato da Rizzoli. 432 pagine, 17 euro. Qui si parla di asteroidi, di comete, di cui ci vengono spiegate la natura, i movimenti, le varie categorie. Ma perché occuparci di questi sassi volanti, al di là delle ancestrali curiosità per ciò che riguarda il cosmo? Perché, ci spiega l'autore, ci sono enormi risorse che potremmo sfruttare, dopo aver però definito il quadro giuridico di questi beni. L'autore scrive infatti: come gestire le risorse spaziali fa parte di una questione molto più grande, che riguarda il modo in cui decideremo di gestire che le risorse che chiamiamo in maniera molto vaga beni comuni o patrimoni dell'umanità. Tutto questo, aggiunge, avrà enormi ripercussioni non solo sul nostro lontano futuro, ma anche su quello più immediato, perché la ricerca e l'estrazione di queste risorse sulla Terra, insieme alle richieste sempre crescenti, stanno già portando la biosfera in cui viviamo al limite. Ci potrebbero, per esempio, aiutare queste risorse ad affrontare la stessa emergenza climatica, grazie, ci spiega, a una rete di pannelli solari che potrebbe restare continuamente esposta al sole senza problemi di nuvole di polvere, che non sarebbe lanciata dalla Terra, cosa quasi impossibile, ma che potrebbe essere costruita direttamente nello spazio, e questo appunto consentirebbe di affrontare questa emergenza. E a questo punto il confettino, un libro adatto a giovani e meno giovani, è il piccolo libro illustrato dell'universo di Ella Frances Sanders, autrice e illustratrice, pubblicato da Marcus e Marcus, 186 pagine, 19 euro, tradotto da Ilaria Piperno. E il libro ci invita a considerare il rapporto tra noi e l'universo. Si parla molto di fisica anche qui, ma anche di matematica, di evoluzione, di biologia, di metodo scientifico, di tempo e naturalmente della Luna. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, e Pietro Lacorte, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.